are gonna change. They say wait until tomorrow. Yesterday is always strange. They say wait until you're older. Allora, eccoci, siamo qui, finalmente ritorna Busillis, siamo in diretta su Radio ZM e ciao Eki. Ciao. Abbiamo avuto un po' di problemini tecnici, anche questo nostro ingresso non è stato esattamente coi piedi di fata, però l'importante, la bella della diretta è l'importante che siamo tornati, che siamo qui di nuovo. È passato un po' di tempo dall'ultima volta. Io sono sicuro che tu hai un sacco di cose da raccontarci. Ma sì, cosa ci siamo persi dal mondo dell'attivismo, ma so che hai anche un aneddoto bello preciso. Sì, esatto, volevo iniziare questo episodio con un sogno, che poi in realtà è il motivo per cui mi è venuto in mente di parlare di greenwashing, che è il tema di questa terza puntata. Vabbè, questo un pochino ve l'avevamo spoilerato, se ci seguite. E praticamente ho sognato, a me capita spesso di ricordare i sogni, ecco, partiamo da questa cosa, quindi poi da lì ci ragiono sopra, insomma. Che è un'arma a doppio taglio. Esatto, perché a volte possono essere anche poco belli, no? E allora in questo sogno io mi trovavo in questa sala del cinema e assistevo a una serie di, insomma, ero spettatrice di una serie di pubblicità. Di vabbè, varie compagnie, insomma, più o meno famose. Finite le pubblicità, vedo che il pubblico rimane in silenzio, no? Un po' per dire: ma cosa abbiamo appena guardato, perché? E fuori proprio dal coraggio che tiro fuori solamente nei sogni, dico: no, comunque complimenti per questo greenwashing. Era praticamente in mezzo al cinema, muto, tu dici in mezzo questa al cosa. Cinema, ma era come se qualcuno in realtà ci stesse facendo vedere queste immagini, no? Queste pubblicità. E quindi io era loro che parlavo. C'è un po' Arancia Meccanica praticamente. Sì, mi sono proprio girata e ho detto: bravi, cioè, proprio, brava, brava, così. Ho detto complimenti per questo greenwashing e insomma ho iniziato ad argomentare un pochino. E lì per lì hanno cercato di zittirmi, tipo dandomi della bambina, cose un pochino che vabbè, lì poi il mio subconscio che reagisce. E a un certo punto vedi che uno parte, ti fa tipo un segnale, entrano in sette guardie del corpo. Sai che erano sette. Sette. Come fai a ricordarti queste cose dei sogni? E niente, iniziano a darmi le botte perché insomma stavo in quel momento facendo l'attivista, no? E basta, mi sveglio ovviamente perché non era piacevole. E appena mi sono svegliata ho scritto a Sofo. E ho detto: guarda che dobbiamo fare un episodio sul greenwashing, assolutamente. Quindi... E io ho detto: non può che iniziare così, cioè, questa cosa devono saperla tutti, un sogno così affascinante. Esatto, e per fortuna era solo un sogno, nel senso che non mi è mai successo, ecco, veramente, ma volevo cogliere l'occasione per invece lanciare il consenso. Tu sei in realtà, stai cercando di fare sì che il sogno diventi realtà. Cioè che alla fine di questa puntata fuori da ZAM ci sia un gruppo, uno squadrone del marketing di qualche multinazionale. Sì, beh, diciamo che la puntata di oggi è abbastanza spinta, io sono molto carica e infatti volevo capire prima quanto si può dire e secondo me è giusto che diciamo tutto quello che c'è da dire. Assolutamente, assolutamente. Da cosa partiamo? Allora, innanzitutto, piccola cosa prima, perché stavo dicendo, io non sono ovviamente mai stata aggredita, ci sono però attivisti e attiviste in tutto il mondo che vengono invece zittiti, no? In qualche modo, con varie minacce, insomma, e quindi volevo lasciare prima un messaggio di solidarietà agli attivisti e attiviste di Milano, di Fridays for Future. Senti l'inglese in questo episodio, perché non so se lo sapete, nel caso potete andare a seguire la pagina e seguire tutta la vicenda. Il 19 maggio sono entrati a casa di tre persone per sequestrare tre attiviste il nome, diciamo, di una famosa compagnia, di una compagnia petrolifera che in realtà è la terza più inquinante al mondo, che si chiama Gazprom. E per, insomma, intimidire, no? Quello che poi è il lavoro degli attivisti e delle attiviste, ed è una cosa che succede in realtà in tutto il mondo, soprattutto per quanto riguarda l'attivismo ambientale. Quindi prima volevo lasciare, ecco, questo messaggio, e poi arrivare un po' al clou di questa puntata di oggi, che è appunto il greenwashing. Diciamolo insieme. Vai, 3, 2, 1. Greenwashing! Anzi, quasi dopo lo facciamo dire a Cosmo. Bene, greenwashing cos'è? Perché dobbiamo preoccuparcene? Che effetto ha su di noi? Perché allora, ne subiamo le conseguenze? Il greenwashing, partendo proprio dalla parola lavare nel verde, ecco, si può mettere, si può tradurre in questo modo, dal termine che, vabbè, è inglese. Ricorda un po' il riciclaggio di denaro. Se ci denaro, beh sì, ci sono anche come concetto, cose. Sì, ci sono, poi c'è whitewash, insomma ce ne sono tante. Il greenwashing nello specifico si riferisce a questa tecnica di marketing che mira a mostrare una determinata compagnia oppure un'azienda, un brand, qualsiasi cosa, come eco-responsabile, senza che però vi siano dei reali segnali di miglioramento o addirittura di impegno, di interesse da parte di questa azienda, io continuo a toccare il microfono nel frattempo. Sei attiva. perché sono qua che gesticolo, mi allontano un pochino. E quindi in realtà senza che ci sia un effettivo impegno, no? da parte di questa azienda, di questo ente. Quindi se... Cioè, predicare bene e razzolare male, se non peggio. Razzolare peggio, bravo, bravo. Nel senso che se un'organizzazione spende più tempo e soldi, e a volte sono molti di più di quelli che spenderebbe semplicemente a fare meglio, a fare le cose piuttosto che dire di farle. Esatto. Se invece occupa le sue energie, il suo tempo per presentarsi come eco-friendly, invece che fare davvero qualcosa, sta facendo greenwashing. Quindi questo è proprio il sunto. Ma veniamo al perché viene utilizzata questa tecnica di marketing. Perché, allora, c'è chi dirà perché la sostenibilità va un po' di moda. Un po' è vero. Un po' è vero, ma perché? Perché c'è una coscienza sempre più sviluppata, una consapevolezza da parte delle persone che poi alla fine sono consumatrici e consumatori. E comunque, bene o male, devi intercettare il consenso. Certo. Del trend che c'è in quel momento. Esatto, devi rispondere un po' alla domanda. E io questo onestamente lo vedo anche io nella mia esperienza aziendale. Sì? Molto, su qualsiasi cosa. Su qualsiasi cosa. E sì. Perché adesso inizia a ricoprire, cioè si è veramente diffuso in maniera molto, molto più vasta rispetto a quando è nato, no? E quindi il cambiamento climatico rappresenta oggi una delle principali paure per molte persone, moltissime. E c'è una parte di consumatori e consumatrici che vorrebbe fare la propria parte, vorrebbe agire, vorrebbe sentirsi partecipe in qualche modo di miglioramento, di insomma avere un impatto positivo, no? E quindi, come stavamo dicendo prima, le persone si devono, le aziende, insomma, le imprese si devono anche abituare, adattare a questo nuovo trend, che viene proprio analizzato in quello che si chiama la consumer behavior, quindi come il consumatore si comporta. Sai, cioè, il marketing poi secondo me è una scienza fantastica, ma anche fantasticamente spaventosa. Condivido. Vero? Perché alla fine, cioè, ti devono vendere cose di cui tu non hai bisogno. Ma cioè, ti rivelo che io stesso molto spesso, lavorando in questo settore, mi spavento quasi delle cose, no? che devi studiare, che devi sapere per fare buon marketing, cioè, oggi. Psicologia, cioè alla base. Sì, diciamo psicologia brutta, però, cioè nel senso finalizzata comunque a sfruttarti in qualche modo, no? Sfruttare, esatto, quelli che sono i tuoi sentimenti, i tuoi interessi di quel momento. Esatto, quindi c'è questo, insomma, nuovo trend è stato proprio identificato, soprattutto nelle nostre generazioni, quindi millennials, generazione Z, c'è sicuramente più interesse, più attenzione, si vuole fare qualcosa. C'è più attenzione nel selezionare determinati brand rispetto ad altri, e quindi chi coglie la palla al balzo ma in realtà non ha voglia di fare il lavoro di base, di cambiare, cosa fa? Strategia di marketing, greenwashing a manetta. Per vostra curiosità, così diamo anche un contesto un pochino più strutturato, vi volevo dire che il termine in realtà nasce nell'86, quindi si viene da lontano. Quindi. Viene da lontano, in realtà da ancora prima. Nell'86 c'è un ambientalista che si chiama Jay Westerveld. E questa storia è molto carina. Praticamente cosa fa lui? Smaschera questa compagnia petrolifera statunitense che si chiama Chevron, perché questa compagnia aveva commissionato una serie di pubblicità costosissime, aveva speso tipo $200,000 su pubblicità, questa campagna che si chiamava People Do. Le persone fanno, quindi si vedono gli impiegati che si prendono cura di orsi, farfalle, tartarughe, tutti gli animali tipo carini e coccolosi. Beh, negli anni poi in cui la pubblicità era, poteva cambiare le cose da così a così. Chiaro, cioè la televisione era il mezzo di comunicazione. Io mi ricordo, se una delle cose che ho studiato, per esempio, nel campo del marketing è una scena di Mad Men, non so se hai visto la serie, che è una serie sui pubblicitari di Madison Square, di Madison Avenue, scusami, di New York, che a cui ad esempio era stata commissionata dalla Lucky Strike, che voleva fare uno spot, e gli chiedono come le fate le sigarette, ma noi le tostiamo, voi le tostate, e lui inserisce questa cosa nella pubblicità: le nostre sono tostate. E poi lui dice: ma guarda che tutti le tostano, non importa, voi siete gli unici che lo dite. Cioè, lì proprio cambiava da così a così. Sì. No, veniva proprio, era il mezzo. Infatti erano molti meno anche gli strumenti da parte dei consumatori e delle consumatrici per capire effettivamente poi cosa ci fosse dietro. Certo. No? Quindi venire in qualche modo, venire fregati dal greenwashing era forse, perché poi in realtà no, perché poi lo vedremo, forse un pochino più facile prima, quando avevi meno strumenti per poter meno consapevolezza andare, meno consapevolezza, certo, chi è che andava a collegare. Beh, c'era anche meno facilità di informazione a un livello che abbiamo oggi, quindi sì, assolutamente. E quindi addirittura, vabbè, per questa campagna hanno vinto pure un premio Effie, che sono andata a vedere prima appunto per la pubblicità, cosa assurda. E nel frattempo questa compagnia petrolifera violava una serie di che trattati. In realtà ha una sua logica, cioè la pubblicità ha fatto quello che doveva, cioè il premio per la pubblicità, io dico, in questo senso ci sta, c'era, cioè quello che doveva fare l'ha fatto. Però poi gli attivisti, insomma, ambientalisti, hanno dato il premio tipo Gold per greenwashing, quindi ha vinto anche quello di premio, diciamo così, in senso figurato, perché in realtà questa compagnia stava violando una serie di trattati, tra cui il Clean Air e Clean Water Act, che sono due cose che, insomma, per l'aria, pulizia dell'aria, pulizia dell'acqua, perché versava petrolio nei rifugi della fauna selvatica. Quindi proprio cattiva, no? Ha fatto una cosa terribile, e allora da lì è nato il termine greenwashing, proprio per dire: state lavando i panni in qualcosa di verde che in realtà tanto verde non è. Non è. Anzi, al massimo un color petrolio. Comunque, in realtà, come dicevo, il greenwashing non nasce nell'86, nasce ancora prima. Probabilmente in realtà è sempre un po' stato lì. Per fare un altro esempio, negli anni 60 c'erano dei giardini, sempre negli Stati Uniti, si chiamano giardini atomici, se a qualcuno interessa potete andare a vedere. Loro cosa volevano fare? Convincere che l'energia nucleare fosse green, e quindi usavano l'energia nucleare per andare a far crescere delle piante mutanti, in modo che crescessero tipo più rigogliose, più sane, più forti, delle cose assurde. Quindi ecco, questa è un pochino la storia. Però se volete possiamo già, visto che siamo tornati, possiamo intervallare. Allora, innanzitutto è iniziata la primavera. dall'ultima volta che ci siamo sentiti è uscita un sacco di musica nuova, un sacco davvero, però noi abbiamo deciso di rimanere un po' sul tema in realtà per questa puntata, e quindi partiamo dagli anni 60, non proprio da lì, insomma, da una rielaborazione, da una bellissima cover che più o meno abbiamo sentito tutti, immagino, a Sanremo, della rappresentante di lista insieme a Cosmo, Margherita Vicario, Ginevra, che si chiama Be My Baby, e che, vabbè, ci ha divertito molto allora e, beh, che, insomma, ci piace molto anche adesso. Ce l'ascoltiamo e ritorniamo qui tra poco per dire cose grosse. Ballate. Be My Baby. The night we met, I knew I needed you so. And if I had the chance, I'd never let you go. So won't you say you love me? I'll make you say. Rieccoci, siamo rientrati. Bellissima cover, abbiamo subito un po' di energia nuova, anche perché come vi dicevamo Eki oggi è bella carica e ha un pochino di informazioni belle secche da darvi, abbiamo un po' da stordirvi, ma c'è anche sempre della buona musica con cui rilassarci un pochino, visto che comunque l'orario è aperitivo, venerdì sera, lo sappiamo che insomma siamo tutti un po' in quel mood così estiveggiante. Comunque, per entrare un pochino più dentro la questione, dicevamo greenwashing, quali sono queste strategie nel particolare che usano queste aziende brutte e cattive? ce ne sono un po', c'è chi vabbè ne classifica, ne trova 9, ma non so a dirvele tutte, anche perché non è il caso. L'importante penso sia capire in linea di massima che cos'è e quindi come poi lo possiamo riconoscere, no? questo greenwashing. Quindi ci sono alcune strategie, in realtà come abbiamo visto nasce già qualche decennio fa, e poi con l'avanzare degli anni le tecniche in realtà si sono affinate, sono diventate un pochino più sottili, più sofisticate e allo stesso tempo più diffuse, motivo per cui stavo dicendo sì, forse prima quando non c'era l'informazione era più facile farsi fregare. Ma devo, ad essere onesta, conoscendo poi la modalità con cui vengono trasmesse queste informazioni oggi, forse oggi ci si fa fregare ancora di più. Soprattutto chi lo fa, cioè chi si fa fregare con realtà buone intenzioni, perché magari una persona, una consumatrice, un consumatore vuole davvero contribuire e ci rimane male sostanzialmente quando poi scopre che era tutta un'ecologia di facciata. E per entrare appunto nello specifico, una delle prime tecniche che possiamo, forse quella più visibile, che possiamo proprio trovare ovunque, è l'associazione del prodotto che si sta vendendo, dell'azienda, insomma dell'immagine, alla sfera ambientale. Quindi una parte proprio più visiva, dove per esempio si possono utilizzare immagini evocative di elementi della natura, montagne, laghi, fiumi, animali, come la pubblicità che dicevo prima, gli impiegati che abbracciano gli animali, ecco, quindi proprio far sì che un prodotto venga associato a qualcosa che comunque più o meno rientra nel tema ambiente. Oppure, molto molto banale ma super efficace, l'utilizzo del colore verde, greenwashing anche per questo. Non so se ci avete fatto caso. Ci dici, nel mondo dell'immagine, in cui tutto è dominato dall'immagine, basta proprio, cioè, il verde a... Assolutamente. Ma condizionarti sì. In quel senso. Sì, perché poi c'è tutta anche una forma di packaging, no? Per esempio, vedere un certo tipo di packaging attira un certo tipo di clientela. Quindi se magari devo comprare, non lo so, i pomodorini datterini, li vedo nella mia scatola di carta, sono più attratta da quelli piuttosto che alla plastica. Poi non è detto che quello sia necessariamente greenwashing. Per fare un altro esempio, non so se ci avete fatto caso, sono moltissimi brand che negli anni hanno cambiato colore e stanno mettendo il verde qua e là. Allora, ne cito uno che di vai, green... vai, iniziamo a fare i nomi. Vabbè, questo in realtà è proprio... insomma. Cadrete in tanti questa sera. Allora, la Coca-Cola, nostra primo esempio di greenwashing. Perché? Perché la Coca-Cola è, penso, tra le più o la più grande inquinatrice, si dice? Insomma, azienda che inquina il mondo con la sua plastica negli oceani. Cosa ha fatto Coca-Cola? Ha fatto la linea con l'etichetta e il tappo verde. Si chiama Life, oltretutto, mi pare, questa linea. Quindi proprio me la sono persa questa mossa verde di Coca-Cola. Eh sì. Quindi, cioè, proprio andare ad accostare due cose opposte, no? La Coca-Cola con la plastica. Con il green. Quindi non... No, sì, scusi, il green con la plastica, esatto, io pensavo. Il green con la plastica. Quindi questo, per esempio, uno. Ma funziona, perché tu vedi già la Coca-Cola, poi appunto è uno degli esempi, ci sono tantissimi altri, che basta cambiare a volte il colore. Poi una seconda tecnica, anche questa stradiffusa, molto molto utilizzata, è la mancanza di definizioni precise e l'utilizzo di termini vaghi tipo eco-friendly, naturale, organico, sostenibile, bio, 100% riciclabile, green, perché anche green ti mettono tipo green sulla, e tu dici, quindi in che senso? Non vuol dire nulla, cioè, soprattutto se... Cioè, ragionamento di azienda, a me non costa niente scriverci green, tanto poi... Chiaro. Chi è che viene a rendermi conto del procedimento esatto che sì, mi ha portato a dire green? Se non c'è una definizione, ma anche dire 100% riciclabile, cioè nel senso le bottiglie di plastica, volendo tu le ricicli nella plastica, sono riciclabili, no? Fino a un certo punto, quindi cosa mi stai dicendo? Niente, fuffa. Quindi un'altra tecnica che poi si accompagna anche a questa è quello di proprio dare informazioni o comunque di fare affermazioni, non dare informazioni, fare affermazioni non comprovate. E quindi in assenza di dati che le possano supportare. Quindi io per esempio dico non lo so, una qualsiasi bugia praticamente potrebbe andare bene, e se non ho i dati che la supportano sto facendo greenwashing. Un'altra tecnica è quella di dimenticarsi che ogni prodotto ha un ciclo di vita, e quindi io magari mi focalizzo su una parte di questo ciclo di vita che magari ha un impatto più o meno positivo, o comunque evidenzio questo aspetto ambientale di una fase sola del ciclo di vita del prodotto, tralasciando e ignorando tutto il resto, no? Quindi per esempio arrivo a un certo punto della mia catena di vita del prodotto in cui dico, ah guardate, faccio, non lo so, non ho emissioni di CO2, sparo a caso. Però sì, magari invece in realtà, di nuovo tornando all'esempio della plastica, stai usando chili e chili di plastica, capito? Quindi non vedere solo proprio un... far travedere solo una parte della realtà. E poi c'è una cosa che si chiama proprio... cioè, perché tutte queste tecniche, poi alcune hanno anche un nome, si chiama, tradotto in italiano, lo specchietto per le allodole. Questo specchietto per le allodole consiste nel, mi fa un po' ridere, promuovere energicamente il profilo ambientale di un singolo prodotto. Quindi magari io ho una catena, sono un brand di fast fashion, questo proprio esempio azzeccato, perché cosa fanno per esempio le grandi marche che adesso sono tutte con le loro capsule di prodotti che ti vendono i vestiti 100% cotone organico, queste cose qua, ti promuovono quella loro linea, una linea su centinaia e centinaia che ne hanno, no? E quindi c'è poco sforzo, massimo è come se facessi su tutti. Certo, quindi tu punti proprio su quello, ma in realtà stai vendendo e producendo anche in larga scala prodotti che sono completamente privi di queste caratteristiche. Mi è venuto in mente un pensiero che in realtà molto spesso mi trovo anche io ad affrontare lavorativamente, parlando, che è molto fastidioso per me, cioè che spesso da parte delle aziende si ragiona come se il consumatore, il pubblico in questo caso, lo chiamo pubblico perché per me è un po' tutto il popolo, ormai è pubblico, non fosse intelligente, cioè è come se tu potessi fregarlo sempre, no? E non lo considerassi come qualcuno con una certa formazione, con dei valori, con ad esempio delle idee, no? Quanto secondo te è vero questa cosa? Quanto è responsabilità delle aziende e quanto è responsabilità del consumatore? Domando. Eh? Allora, ta-dam! Bellissima, bellissima domanda, perché ogni tanto ci penso. Allora, a me non piace l'idea che una persona che si faccia fregare da greenwashing lo faccia. Insomma, che questa cosa succeda perché è stupida, no? Proprio perché si tratta di strategie pensate dietro. È difficile, nel senso che da un lato penso che nonostante una persona possa essere anche intelligente, insomma, consapevole quantomeno, diciamo. Consapevole, sì. È difficile, perché comunque è impegnativo e ti richiede dei costi, del tempo, andare a cercare i dati di cui hai bisogno per poi fare delle scelte consapevoli. Quindi questo è il primo passaggio, la prima difficoltà. Tu, se hai fretta, cioè, non lo so, devi comprare una cosa, non è che adesso ti metti o banalmente non sei nelle condizioni, diciamo, di avere il tempo e le risorse di fare questa ricerca. Chiaro, chiaro. È, come moltissime altre cose, un privilegio, cioè quello, sì, di certo, avere questa consapevolezza. Quindi già il primo passo è quello di riuscire ad accedere, no? Per appunto tempo, risorse, qualsiasi cosa, a queste informazioni in più, non è assolutamente da dare per scontato. Nel momento in cui riesco ad accederci perché là ho già un interesse in più, non è detto che comunque io riesca ad evitare del tutto quel tipo di scelta, quel tipo di acquisto magari. Per esempio, tornando all'esempio del fast fashion, io so benissimo che comprare una maglietta di Zara che mi costa poco fa male all'ambiente, fa male alle persone che ci hanno lavorato su e ha una serie di conseguenze negative, però dal mio punto di vista, magari del singolo, non potendomi permettere qualcosa di più costoso, devo andare contro questa mia etica, certo, e prendermi una maglietta di Zara. Quindi c'è anche questo aspetto qui, magari una volta che lo so, comunque sono un pochino impossibilitato da fare diverse scelte. Ma in generale ti dico, come un po' tutte le strategie di marketing vanno con il flow, cioè se vedono che c'è questo interesse alla sostenibilità da parte delle persone, cavalcano proprio l'onda. Beh, quindi, certo, se non fosse un trend, se non fosse qualcosa su cui possono, insomma, sì, fare consenso, non avrebbe senso. Però è triste questa cosa, è triste perché la responsabilità è delle aziende, ovviamente tu devi mettere il consumatore, la consumatrice in una posizione di totale trasparenza, informazione, non puoi fregarlo, fregarla, perché non, vabbè, poi è quello che si fa in realtà, no? Ma secondo te quanto dipende dai social, non so se dipende dai social, questa tendenza anche, no, in un qualche modo ad esempio nel marketing, a fare pubblicità non in un modo, chiamiamolo, sano, diciamo, verso il tuo seguito, ma a cercare di irretirlo, di intrappolarlo? Cioè, secondo te è una cosa che è più recente, è sempre stata così, o è cambiata perché appunto oggi le immagini dominano i social, internet, è molto più facile essere intrappolati in quella macchina? Ma ti dirò, sicuramente è più facile. Io sono, per esempio, banalmente utilizzando Instagram, sono molto più esposta a centinaia e centinaia di prodotti che magari a me non interessano neanche, però li vedo perché sono lì, perché sicuramente per i miei modi, per il mio, ci sarà una parola che adesso non mi viene nel mondo del marketing, comunque sono una persona che ha un target, come dire, classificata, no? Cioè, per esempio, sanno cosa mi piace, certo, sanno dove vado a comprare le cose, sanno la mia etica, e quindi anch'io rientro in questa sfera. Sì, sei un profilo. Un profilo, grazie. Sono un profilo e quindi purtroppo, come sicuramente è sempre esistito, però adesso con i social sì, cioè, sento molto più Leggevo tra spesso. l'altro che Instagram si sta attrezzando per diventare sempre più luogo dove le persone acquistano senza neanche uscire da lì. È Sì, sta preoccupante questa diventando. cosa? È molto preoccupante. Io me ne rendo conto perché magari quando sei lì, non lo so, guardi le storie, io cioè, per esempio l'ho fatto. Le guardi, se magari le guardi con attenzione, non ti rendi neanche conto di quanta pubblicità c'è. Se invece la vai a cercare, dici: aspetta, adesso voglio vedere ogni quante storie mi arriva la pubblicità del prodotto, che sia, cioè, appunto, col packaging eco-friendly, tutte queste cose qua, perché queste sono le cose che ricevo. Ed è tipo ogni tre storie, cioè se tu clicchi veloce fai 1, 2, 3 pubblicità, 1, 2, 3 pubblicità, 1, 2, 3 pubblicità. E quindi sì, siamo bombardate. Ma questo è uno appunto anche dei motivi per cui alla base di tutto, cioè per un vero consumatore green, una vera consumatrice green, c'è la riduzione del consumo. Paradossalmente, consumatore green non vuol dire che io acquisto prodotti green, ma continuo ad acquistare tutto il tempo i prodotti Sì, cioè, green. va di pari passo comunque con un consumo Sì, moderato, moderato. sensato, pensato e Sì. non E non abusato, diciamo. abusato, sì, che sotto l'onda appunto del consumismo, perché alla fine è di questo che si tratta. Quindi questa cosa secondo me è molto triste, ma soprattutto il fatto che, tornando appunto al discorso del greenwashing, il fatto che bisogna addirittura mentire, cioè proprio distorcere quella che è la realtà dei fatti per ingannare, poi cioè fare una pubblicità ingannevole, assolutamente non etica, no? E andare quindi a prendere quelle persone che nella loro buona volontà volevano magari fare il passettino di dire ok, faccio, dai. Faccio questa cosa, faccio qualcosa in più, perché anche lì poi c'è tutto il discorso del quanto possiamo fare noi nel singolo e quanto invece siamo dettati da altre circostanze. Pausa? Pausa Pausa, dai. musicale, ci sta, che dici? Allora, qui cambio ancora un pezzo bello movimentato. Questo lo hai scelto tu. Vuoi dire che intanto andiamo in Francia, Sì. giusto? È inedito per Busillis. Un Nuove pochino. frontiere. Ogni tanto ascolto artisti francesi, mi piace molto, sai? Non il rap, quello ancora non riesco, Il rap so che tra l'altro è una però. scena molto viva, Lo francese. so, ma infatti per quello intanto mi sforzo, ma no, mi Cioè, diciamo affaccio. che è facile che se ti deve arrivare qualcosa di francese, è facile Sia che sia quello, sia di quella quello. scena lì. Però No, questo è ci sono un carino. sacco di cose molto carine. Sì. Ai tempi di Saladdays, insomma, anche io Sì, ma anche questo. trovavo molte cose. Anche questo è un pezzo per ballare, quindi se siete insomma in piedi o vi mettete in piedi, insomma, ballatelo. E si chiama appunto greenwashing, quindi non poteva essere più azzeccato. Oggi proprio tematici, cioè sul punto, sul pezzo, fino alla fine. Messaggi Vai, subliminali. ascoltiamocelo. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. Wash. plastique sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques, des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert, mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. Eccoci, eccoci, un altro pezzaccio bello vivo, bello ardente, sempre sul pezzo. E, attenzione, signori, è il momento di attaccare i giganti, giusto? È il momento di fare i nomi. Facciamo nomi. Tremate, tremate, signori. Se state in ascolto, se non state in ascolto, sappiate che il vostro mondo sta per cambiare. Perché chi è qui con noi? Sei molto ottimista. Comunque... Troppo, dice. No, no, vabbè, ci vuole ogni tanto. Se no, cosa stiamo qui a fare alla fine? Parlare su Radio Zam alle 8:15. E, sì, iniziamo... Allora, magari prima di fare i propri nomi, per chiudere proprio un pochino la parentesi su che cos'è questa tecnica tanto malvagia. E, allora, diciamo che essere sostenibili non può ridursi ad un'operazione di marketing, no? Come quella del greenwashing. Quello che serve è autenticità e soprattutto un impegno alla sostenibilità. Sostenibilità intesa nelle sue tre dimensioni. La sostenibilità è questo concetto che in realtà ha una dimensione ambientale, ma neanche una sociale ed economica. Ricordiamo che noi offriamo soluzioni sostenibili, forse. Chiaro, quindi comunque dobbiamo sempre pensare, no, a queste tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica. Nel frattempo è arrivata una domanda da uno dei nostri ascoltatori in presenza qui in studio. Abbiamo anche un pubblico, insomma, noi siamo un programma di un certo tipo, una certa eccellenza. Ci chiedono e chi appunto può fare attivamente qualcosa oltre agli attivisti, e quindi entriamo nel campo del leggi, governi, istituzioni che possono penalizzare, menare chi... Chi abusa di questo greenwashing? Diciamo che le varie entità che possono smascherare i, possiamo chiamare i greenwashers, non lo so. Tendenzialmente vivono grazie ai greenwashers e quindi non lo fanno? No, l'ho sparata così, eh? No. Però no. Non penso di essere molto lontano. No, c'è chi li smaschera. Infatti, in realtà, chiunque abbia accesso ai dati, molto molto detta proprio semplicemente. Come dicevo prima, si tratta di avere l'energia e il tempo e questo accesso non è sempre così, fluido, nel senso che ci sono moltissime compagnie ben consapevoli della loro azione di greenwashing che non hanno trasparenza. E quindi tu non hai modo di andare effettivamente a vedere se cosa stanno combinando, cosa stanno facendo. E partendo dal presupposto che invece magari questi dati siano accessibili, siano fuori, chiunque, nel senso che soprattutto gli attivisti, gruppi di attivisti come per esempio Greenpeace, per citarne uno, poi c'è Break Free from Plastic, che è un movimento che anche lì ha smascherato varie compagnie. C'è Earthsight, molto interessante, anche loro si fondano su questa etica dello smascherare assolutamente questo tipo di comunicazione dannosa, comunicazione di facciata. Plastic Rebellion, ce ne sono molti. Alcuni però sono anche delle agenzie, tipo c'è un'agenzia che si chiama Advertising Standards Agency, quindi sono proprio agenzie pubblicitarie che ti dicono: guarda che questa cosa che stai facendo la stai facendo male. E quindi ecco, un po' chiunque. Ma questo nasce dal fatto che soprattutto anche a livello europeo si sta parlando ovviamente di sostenibilità, di sostenibilità nelle imprese, come può un'azienda diventare green, e quindi si sta sviluppando tutta una pratica, ovviamente richiederà tantissimo tempo, dove si mettono un pochino dei paletti, ci sono delle direttive che ti dicono tu cosa dovresti fare, cosa non puoi fare, e quindi un'azienda, diciamo, che dovesse entrare per esempio oggi nella startup, ecco, che entra oggi nel mondo del lavoro, ha già più o meno le sue direttive, partendo un pochino forse più avvantaggiata rispetto a tutte quelle che devono andare ad effettuare un cambiamento radicale della loro struttura di mercato, del loro business. E quindi, infatti, come dicevo prima, c'è questa autenticità, questa dedizione in qualche modo alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti, è in realtà molto impegnativa, non è una cosa facile, per questo si ricorre al greenwashing, perché bisognerebbe in realtà impegnarsi un pochino di più, e quindi quello che si richiede è proprio una trasformazione radicale. Ci sono poi, oggi non so se voi nel mondo appunto del lavoro, io quando vado su LinkedIn vedo che si cerca molto questa figura esperta di responsabilità sociale delle imprese, praticamente questa nuova regolamentazione che vuole creare un impatto positivo sulla società, includendo una ecoconsapevolezza, ed è una nuova, un nuovo ramo, insomma, si sta un pochino andando lì. Cos'altro si può fare? In realtà anche nel singolo, tu per esempio come persona singola puoi fare qualcosa. La prima che io ti direi è ridurre il consumo. Vai sul sicuro proprio se riduci il consumo, nel senso che piuttosto che vedere appunto il capo di H&M che ti dice ah sì, ho fatto la linea nuova, se a te quel capo in realtà non serve, tu proprio come si dice, avoid, eviti il greenwashing, non comprare, cioè proprio vai sul sicuro. Altrimenti ci sono anche altri modi, per esempio c'è tutto il mondo delle certificazioni, che è una cosa che consumatore medio tipo me mi sono dovuta andare a cercare su internet, perché non è che te lo insegnano, non è che è una cosa così tanto insomma risaputa e alla portata di tutti, e quindi queste certificazioni si chiamano anche eco-etichette. Praticamente sono andata a vedere, ce ne sono tantissime, quindi non sto ad elencarle, però alcune sono obbligatorie, quindi diciamo ci sono degli standard minimi, dei requisiti minimi per poter essere considerato insomma un'azienda che perlomeno non faccia dei danni, ecco. E alcune invece sono volontarie, quindi più un'azienda si impegna per raggiungere queste certificazioni volontarie, più è proprio l'impegno alla fine che uno quindi va a quindi queste etichette, diciamo, riconosciute abbastanza comunemente, diciamo, per portare una consapevolezza molto facile, diciamo, al consumatore, sì, a livello più superficiale, per sì, dirti ok, vai tranquillo. Quindi cioè, ci sono tranquillo. Sì, ci sono, come dicevamo prima, per il discorso un po' dell'immagine, cioè che tu magari anziché andare a cercarti le informazioni trovi il tuo bollino, come quello che per i vegani è tipo il bollino vegan ok, tu anziché stare a leggerti tutti gli ingredienti e vedere se c'è dentro il latte, le uova, il miele, vedi il bollino vegan ok, vai sul sicuro. Ecco, esiste la stessa cosa anche per chi vuole andare verso una strada più green, più sostenibile, perché green abbiamo detto che è un po' generico, anche sostenibile è un po' generico, ma insomma per farci capire. E quindi per esempio ci sono queste etichette, e alcune sono, allora non lo so, per esempio tengono in considerazione una serie di valori tipo, non lo so, il consumo di energia, i materiali che produci, se sono riciclati, se non sono riciclati. Ce n'è una a livello europeo famosa che guarda proprio l'intero ciclo di vita di un prodotto, che si chiama Ecolabel. Ce ne sono altre, e poi c'è per esempio Fair Trade, che sono quella tipo c'è un lomino con lo sfondo blu e giallo, ecco, non so se l'avete mai vista. E poi c'è Rainforest Alliance, che è quella con il ranocchio, insomma ce ne sono un po'. E poi ci sono anche le B Corp Certifications, che sono praticamente delle aziende, le aziende che ottengono questa certificazione Quindi allora, quelle realtà di cui vi parlavo prima sono un pochino più relative ai prodotti, quindi vado a comprare appunto il prodotto specifico, trovo il mio bollino. Mm-hmm. Ci sono poi però delle certificazioni anche per le aziende, e quelle che sono particolarmente impegnate e che soddisfano standard comunque elevati di prestazioni, di responsabilità e trasparenza, sono le B Corp certifications, ecco. E quindi anche queste in realtà, se andate sul sito, per esempio, ne menziono una che conosco, che è a Milano, Amsterdam e Madrid insieme ad altre città, si chiama Impact Hub, e se si va per esempio sul sito di Impact Hub trovi, c'è proprio scritto siamo una B Corp, e quindi tu gli dici ok, mm-hmm, andiamo sul sicuro. E nel singolo, quindi diciamo che così per tirare un pochino i fili di tutto questo discorso, cosa posso fare? Sicuramente fare caso alla credibilità e alla coerenza di chi mi sta lasciando un messaggio pubblicitario, nel senso che bisogna che fare... è un po' la risposta alla mia domanda di prima, cioè che sì, bisogna essere anche dei consumatori in quanto tali, osservatori, cioè nel momento in cui sei colpito a tuo malgrado da commercial, da DV, essere anche consapevole, quindi essere in grado di distinguerli e di leggerli. Chiaro, assolutamente. E essere, sì, continuare ad informarsi, forse questa è la cosa, continuare a stare al passo con tutto ciò che succede e non smettere mai di, ecco, forse un po' guardare il lato oscuro un po' ovunque, questa potrebbe anche essere... The dark side of the moon. Potrebbe anche essere... Infatti il prossimo, però no. Potrebbe essere un suggerimento, nel senso, magari fidarsi non subito, non troppo. Cioè, se vedo che mi stanno vendendo qualcosa come super green, faccio due passi indietro e dico, vediamo, approfondiamo un pochino, ok? Proprio perché sappiamo che in realtà... si impegnano molto di più per farti credere che per farti cosa... credere che sì, piuttosto che per farlo, esatto. Quindi magari ecco un pochino più di attenzione in quel senso lì, e occhio soprattutto al greenwashing dei grandi inquinatori. Oh, siamo qui. Per esempio, facciamo una lista. Zan zan. Allora, per ogni nome che tu dirai, io farò partire Cosmo che dice stop greenwashing. Ok. Numero uno. Allora, al primo posto abbiamo in generale, come grandi, grandissimi inquinatori, le industrie fossili. Vado. Pronto, Plenitude. Ale, e una è andata. Una è andata. Al secondo posto, come grandi inquinatori, c'è tutta la parte relativa all'agricoltura, agli allevamenti e al consumo, come abbiamo già detto nel primo episodio, di Busillis, di carne, latti e derivati. Ne citiamo uno a caso? Vai! McDonald's, vabbè, questo è proprio... E a McDonald's? Vabbè, basta, poi adesso non lo facciamo più, giusto per fare questo giochino. Dopodiché abbiamo già menzionato industria della moda, gigante proprio nella... danni, cioè sono danni alle persone, danni all'ambiente, soprattutto il fast fashion, parliamo molto anche del fast fashion, quindi grandi, ma non dico nulla di nuovo in realtà, perché poi tutte queste cose le trovate davvero, basta digitare il nome, scrivere greenwashing di fianco e vengono fuori tutti gli articoli. H&M, Zara, come dicevo prima, queste nuove, ma si vede anche dalle pubblicità, scenari in cui magari, cioè, i modelli, le modelle sono, non lo so, in un campo di grano, vedi, con questi vestiti di cotone organico, no, tutto molto naturale, tutto molto tramonto, cose molto bam, fregati, tu dici ah che bello, sono andata a comprarmi una maglietta di cotone organico, che magari in realtà non, a parte, beh, la qualità, questo adesso non so farti un test della qualità effettiva del prodotto, ma sicuramente non è il fulcro della loro linea, non vendono quello, cioè loro vendono mille altre cose. E poi abbiamo per esempio il settore dei trasporti, quindi occhio, vabbè, qui leggo un nome che per me è il male, proprio il male, il male. Ryanair, vabbè, ce ne sono tantissime ovviamente, no? Cioè, lo fanno anche, lo fanno insomma un po' tutti. Ryanair è addirittura una poi delle quell'agenzia che vi stavo dicendo prima. Ryanair per me è il classico esempio di so perfettamente cosa c'è dietro, ma lo devo utilizzare. Esatto. Nel mio caso è così almeno. Sì, esatto. Io ho un volo prenotato per questo mese. Io pure. Devo volare Ryanair. Sì, non bisogna vergognarsene, purtroppo questa è la realtà, ma appunto poi... Magari la questione dei trasporti è molto molto dibattuta, nel senso che qui, ma soprattutto in Europa, ecco, davvero le alternative sono poche. E anche lì si sta iniziando a muovere qualcosa, soprattutto per iniziativa dei giovani. Però, per esempio, se io volessi raggiungere Amsterdam in treno, 13 ore, cioè forse di più, non lo so, comunque sono cose assurde. E immagino anche un prezzo non indifferente. Sì, e quindi uno, per questo ti dicevo, un po' dipende da quello che tu vuoi fare, dalle tue scelte etiche, che incontrano un pochino un muro quando poi ti ritrovi davanti a una realtà che non ti permette di fare le scelte che tu vorresti fare. Per questo la responsabilità non è tanto del singolo, il singolo può fare tantissimo. Per le cose che può fare, che non è da trovare come scusa per dire no, però, perché comunque uno può anche decidere ok, volo una volta all'anno, capito? Può anche mettersi questi paletti, però se poi la realtà che tu hai intorno ti impedisce di fare qualcosa di più, di andare oltre, purtroppo sì. E quindi, come dicevo prima, occhio anche al mondo dei trasporti. Ryanair aveva messo, forse ce l'ha ancora, quella check che tu facevi sulla box, dove ti diceva se metti 2 euro in più contribuisci alle emissioni di carbonio. Sì, c'è ancora. Ecco. E aveva proprio dato false dichiarazioni sulle sue basse emissioni. È stata anche qui scoperta, e non solo, cioè sui trasporti sono usciti scandali di aerei che pur di volare mantenendo il loro numero di voli e quindi il loro posto in aeroporto facevano partire aerei vuoti, no? Senza persone, quindi comunque da mettersi le mani nei capelli. Poi, vabbè, l'abbiamo già detto, la plastica negli oceani, quindi come può Coca-Cola farmi una pubblicità green? Io ancora davvero non lo capisco, non lo capirò mai. Non fidatevi, cioè semplicemente non ha senso fare le bottiglie, ma questo anche per dirti la San Benedetto, perché l'altro giorno, infatti, per fare la storia del greenwashing, mi è venuta in mente anche con questa cosa, mia mamma ha dovuto prendere una bottiglietta di plastica, l'ha comprata, tipo l'ho fulminata, sono 3 anni che non compro bottiglie di plastica, l'ho guardata proprio, cioè, cosa hai fatto? quando è entrata in casa è partito l'allarme Echi. Praticamente niente. Mi volete iniziare a guardarsi intorno, è casa mia questa. E quindi sì, anche la San Benedetto adesso etichetta verde, montagne, fiumi, laghi, e dici ma cosa è? Beh, se ci penso, quasi tutte le acque che conosco hanno del verde. La Rocchetta ha proprio la bottiglia verde addirittura. Vabbè, sì, lì... San Bernardo ad esempio è l'etichetta verde. San Benedetto. Anche per la sorgente, cioè per darti l'idea che arrivano da questa sorgente fresca nelle montagne. Sì, ti arriva che si fa ore e ore nella plastica, cioè parliamone, no? Le microplastiche, che c'è, cioè, le microplastiche che ti mandi giù, cioè, vabbè, ci sarebbe da dire che non si finiamo più. E poi, ultimo, ma non per importanza, ma poi davvero ce ne sarebbero tanti altri, volevo anche menzionare invece chi contribuisce alla deforestazione e continua comunque a fare greenwashing. E quindi anche qui chiamiamo il signor Lavazza, e chiamiamo anche Espresso, perché comunque non è che c'è solo Lavazza, e poi le piantagioni di cacao. Cacao e caffè fanno disastri, questa è una cosa che ho scoperto purtroppo recentemente. Quindi, per esempio, la Nestlé, che vabbè, lì poi ci si parla anche di bambini, lavoro minorile, insomma, cose, tantissime cose brutte, purtroppo. Quindi, prima cosa è questo, un po' di cercare la coerenza, cercare la trasparenza e chiedersi se c'è credibilità alla base. Trasparenza che a volte è meglio della perfezione, nel senso, molto meglio un'azienda che ti dice guarda che io ci sto provando, cioè ci sto arrivando con i miei tempi. Cioè riesco a fare questo percentuale tot di... Però comunque è... Però sto andando, no? E non ti dice, no, guarda che io non uso... per esempio c'è questo esempio di Patagonia, questo brand, che loro, a differenza della maggior parte delle aziende, non addolcisce il fatto che usa sostanze chimiche, no? Per produrre i suoi capi. Non ti dice, no, noi non lo facciamo, cioè si sa, lo usa. Oppure il fatto che lascia un'impronta ecologica, perché alla fine ognuno, anche io, anche tu, cioè ognuno di noi lascia un'impronta ecologica, quindi non è che puoi dire faccio bene all'ambiente, no? La mia sola presenza qua su questo pianeta lascia la sua impronta. E quindi in realtà la sua missione di sostenibilità è descritta proprio come una lotta per arrivare a diventare un'azienda responsabile. E questo delle volte è, anzi non delle volte, è forse meglio che mentire spudoratamente e fare greenwashing. Quindi in conclusione, così chiudiamo in davvero... conclusione, so che hai una conclusione ad effetto bellissima. Sì. Sei pronta? Allora, ho trovato questa frase che non è mia, quindi non voglio adesso, però l'ho trovata perché ho fatto un po' di ricerca, no? Non so se si era capito prima di questo, prima di registrare questo episodio di Busillis. È una frase molto carina che dice: il greenwashing è una pratica sporca e sappiamo tutti quanto può essere costoso un viaggio in lavanderia. Quindi è per dire che il greenwashing in realtà fa male non solo al pianeta, che tra parentesi abitiamo tutte e tutti noi, quindi ogni tanto ci si dimentica di questa cosa, cioè se io faccio greenwashing come azienda mi sto anche facendo del male, perché c'è tutta questa, dipendiamo anche noi, no? Dall'ambiente intorno. Ma quindi è una pratica che fa male anche alle persone, ai lavoratori sottopagati, alle popolazioni più colpite da modelli di business che sono insostenibili e a tutti poi quei consumatori e quelle consumatrici che, ho trovato anche quest'altro termine, consumatori e consumatrici, nel senso... Mi stavo chiedendo appunto questa doppia T. Praticamente l'idea di cui stavamo parlando prima del consumatore, che in realtà per il suo potere d'acquisto, per il suo potere decisionale, diventa anche attore nel senso di una realtà che vuole poi andare ad indurre un certo tipo di cambiamento. E quindi appunto il greenwashing colpisce anche queste persone che vorrebbero davvero fare una differenza e si ritrovano fregate. Poi vabbè, io... Quindi a tutti cosa diciamo? A tutti cosa possiamo dire? Ridurre i consumi, questa è comunque la chiave di tutto, e fare attenzione al greenwashing intorno. Se volete, anzi, se volete vi possiamo anche invitare a, non so, mandarci foto di quello che trovate in giro. Assolutamente, assolutamente. Voi inviateci, noi seguiteci su Instagram, su Facebook, Radio ZM. E ci facciamo portatori sani della vostra informazione. Sì, magari adesso con una coscienza un pochino rinnovata sulla questione, adesso magari sarà diverso, ecco, anche solo andare a fare shopping, no? Per dire, potrebbe essere, almeno spero, così speriamo, che almeno questo podcast abbia anche una sua utilità, un risvolto davvero positivo. Speriamo di sì. Intanto ringraziamo i nostri ascoltatori, sempre e comunque. Come sempre. Speriamo sia stato piacevole e anche questo terzo pezzo che stiamo per lanciarvi è una bomba estiva. Lui ex Nuguinea, ora Nugenea o Nuguinea, non so come si pronunci. Vabbè, da sempre grandissimi artisti per farci ballare. Ci sono riusciti anche quest'anno con un nuovo disco. Vabbè, noi ci salutiamo con Tiena Te e ci sentiamo. Forse presto, forse no, chi lo sa, come al solito le nostre strane sono imperscrutabili. Innanzitutto ringraziamo tutti quanti Radio ZM per questo nuovo episodio di Busillis e vabbè, insomma, quando sarà il momento ci sarà il quarto episodio. Ci sentiamo per il prossimo episodio, sicuramente. A presto allora. A presto, ciao.